giorno di Simone Spezia. Riciclaggio, sequestrato €1 milione in polizze vita a Gianfranco Fini. L'indagine è quella nella quale è coinvolto anche il cognato. Legge elettorale, partiti vicini all'accordo e voto più vicino. Oggi riprende il percorso parlamentare della manovrina, resta tensione sui voucher. Oggi l'autopsia del bambino morto dopo l'otite e le sole cure omeopatiche. Genitori indagati insieme al medico che era tornato ad esercitare dopo 4 anni a Varese in una setta. Chiuso il campionato con gli ultimi verdetti, inizia il conto alla rovescia per la finale di Champions. In Formula 1 la Ferrari festeggia la doppietta. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e anche la diretta sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, diretta naturalmente video. Buon lunedì a tutti, lunedì che inizia con quella, per usare le parole del nostro Alessandro Milan, che sembra essere la settimana decisiva per la legge elettorale e dunque con il voto che si avvicina. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì Simone, ovviamente settimana decisiva è un tema che ricorre da anni e anni, quindi speriamo sia la settimana decisiva sulla legge elettorale. C'è comunque un'accelerazione, il Movimento 5 Stelle incontrerà il PD alla Camera in quello che potrebbe essere definito un vertice storico qui a Montecitorio. La delegazione 5 Stelle proporrà il sistema tedesco proporzionale con sbarramento al 5% e sarà composta da Roberto Fico, Danilo Toninelli e Vito Crimi. Niente compromessi e niente mercato delle vacche, avverte però Grillo. Gli altri incontri invece si sono svolti questa mattina al Nazareno, dove Matteo Renzi ha incontrato Riccardo Nencini, segretario PSI, e dalla sinistra MDP fanno sapere di non temere la soglia del 5% perché la sinistra punta più in alto. L'obiettivo è quello di portare il testo in aula il 5 giugno, oggi pomeriggio anche gli incontri appunto con MDP e i centristi, mentre domani toccherà Forza Italia Sinistra Italiana, subito dopo la direzione Dem, dove Renzi porterà sul tavolo la proposta del partito. Il testo base è ancora il Rosatellum, metà proporzionale, metà maggioritario, ma già sono pronti gli emendamenti di modifica. Ovviamente appena fatta la legge elettorale si avvicina la data del voto. Te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito. In tutto ciò la manovrina e il tema dei conti pubblici restano al centro della scena e hanno evidentemente anche un impatto politico. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così, il tema dei conti pubblici resta dunque al centro della scena in primo luogo per le votazioni degli emendamenti della manovra correttiva, ma anche perché qualora la legislatura terminasse dopo l'estate si andrebbe al voto alla vigilia della sessione di bilancio chiamata a dare le risposte chieste dall'Europa, a partire dal rientro del debito per arrivare poi al congelamento delle clausole di salvaguardia. Quanto alla cosiddetta manovrina resta in primo piano il tema dei buoni lavoro. Sabato è stato approvato l'emendamento del relatore che introduce il libretto di famiglia per i rapporti domestici e il contratto occasionale per le microimprese sotto i 5 dipendenti. Un voto che ha spaccato però il PD, ha abbandonato i lavori la minoranza orlandiana, sì dai centristi di maggioranza, da Forza Italia e dalla Lega, no invece da Movimento 5 Stelle e dai fuoriusciti di MDP che hanno già annunciato che non voteranno la fiducia che tra l'altro, Simone, potrebbe essere chiesta oggi dal governo. La CGIL parla di palese reintroduzione dei voucher contro la volontà dei lavoratori che hanno votato per il referendum. Ma la manovra si compone di tante altre voci. Tra gli emendamenti che saranno esaminati oggi vi sono la norma per salvare 5 direttori stranieri dei musei italiani sospesi dopo la sentenza del TAR, quella che ripristina i poteri dell'ANAC, il decreto su Alitalia, l'esclusione dei fondi pensione dal bail-in. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. All'estero sono state lanciate 2 inchieste urgenti dai servizi segreti britannici, le MI5, per capire se siano stati compiuti degli errori dagli agenti che avrebbero potuto forse evitare la strage di Manchester. In particolare si vuole capire come l'attentatore Salman Abedi sia riuscito a sfuggire al radar dell'antiterrorismo anche alla luce delle segnalazioni nei suoi confronti che erano arrivate alle autorità del Regno. Il ministro degli interni Amber Rudd ha respinto le accuse sulle falle, ha affermato che è stato fatto tutto il possibile, mentre il Times rivela che le misure per evitare il ritorno dei foreign fighters britannici introdotte dal governo nel febbraio 2015 sono state usate solamente una volta, nonostante recente siano stati circa 350 i combattenti dell'ISIS in Siria e in Iraq che sono rimpatriati. Siamo allo scenario internazionale dopo il G7 che, come vi abbiamo raccontato, si è concluso con un forte contrasto tra Angela Merkel e Donald Trump, un contrasto piuttosto forte, mentre la giornata di oggi vede l'incontro tra il presidente francese Macron e il presidente russo Vladimir Putin. Questo il quadro dal punto di vista degli incontri. Per un punto abbiamo in diretta il nostro Sergio Nava. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Tra mezz'ora circa l'atteso faccia a faccia Macron-Putin alla Reggia di Versailles, che sarà seguito a metà pomeriggio da una conferenza stampa congiunta. Incontro, fanno sapere da Mosca, voluto dallo stesso Macron, dopo che Putin aveva annullato nell'ottobre di solo un anno fa un meeting bilaterale con l'allora inquilino dell'Eliseo François Hollande sull'onda delle tensioni del conflitto in Siria. Ancora la Siria, l'Ucraina e anche la lotta al terrorismo saranno al centro delle discussioni nel pomeriggio, anche sull'onda della G7 di Taormina, dove queste crisi hanno fatto capolino nelle conclusioni del vertice. Macron verosimilmente informerà Putin delle discussioni avute nella città siciliana, ma cercherà allo stesso tempo di riallacciare un rapporto tra Francia e Russia dopo mesi di tensione, alimentate peraltro dagli stessi russi coi palesi tentativi di hackeraggio della campagna elettorale del neopresidente francese e anche il plateale sostegno accordato alla candidata di estrema destra, poi perdente, Marine Le Pen. La Le Pen è tornata oggi a far sentire la propria voce, appoggiando la normalizzazione delle relazioni franco-russe. La visita di Putin si inserisce in un quadro geopolitico straordinariamente fluido dopo l'uscita di ieri della cancelliera tedesca Merkel, che ha pubblicamente affermato che l'Europa non può più dipendere completamente dalle storiche alleanze con Stati Uniti e Gran Bretagna. Per il momento è tutto. E grazie dunque a Sergio Nava. Tra i punti di contrasto all'interno del G7 c'è stato quello sul clima, con l'amministrazione americana, come avete sentito, piuttosto contraria a sottoscrivere l'accordo in vista del G7 ambiente. Alessandra Schiappesi ne ha parlato con il ministro Gianluca Galletti. Sentiamo l'intervista. Indietro non si torna. L'Italia e l'Europa rimarranno ancorati agli accordi del protocollo di Parigi 2015. Lì c'è il futuro del pianeta, ma c'è anche il futuro dell'economia globale. Oggi fare politica economica ambientale non è un onere per le imprese, ma è un vantaggio. L'America farà le proprie scelte, è legittimo. Noi andremo avanti, abbiamo preso un impegno morale, etico, e lo porteremo fino in fondo. Una presa di posizione però quella americana che pesa. Certo, sono scelte che peseranno. Io credo che Trump i problemi li avrà all'interno dell'economia americana, perché oggi la politica ambientale è una politica conveniente per le aziende, e io credo che convenga anche alle aziende americane produrre energie rinnovabili, anche perché i consumatori sono sempre più attenti e guardano che tipo di produzione si attua per fare quei prodotti. Quindi io credo che, al di là della retromarcia, se ci sarà, io spero ancora che non ci sia, comunque la strada del futuro ambientale è segnata e indietro non si torna. Credo che tutta l'Europa andrà avanti unita sugli obiettivi che ci siamo dati, noi per primi. Siamo all'inchiesta su Gianfranco Fini, oggi il sequestro di una serie di polizze vita. Hanno un valore di 1 milione di euro le due polizze vita sequestrate oggi a Gianfranco Fini dalla Guardia di Finanza. A disporre il provvedimento sono stati gli inquirenti della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, titolari delle indagini che hanno portato all'arresto del re dei videopoker, l'imprenditore Francesco Corallo. Nell'inchiesta l'ex presidente della Camera è indagato per riciclaggio assieme alla moglie Elisabetta Tulliani e al cognato Giancarlo Tulliani. Secondo gli inquirenti, Fini sarebbe stato pienamente a conoscenza dei traffici di Corallo, che è accusato di aver fatto parte di un'associazione a delinquere che avrebbe riciclato all'estero i proventi di una maxi evasione fiscale. Con quei soldi, una volta ripuliti, sarebbe stata comprata anche la famosa casa di Monte Carlo, venduta da Alleanza Nazionale a due società offshore riconducibili a Giancarlo Tulliani. Fini ha sempre respinto le accuse a suo carico e i suoi legali annunciano ora ricorso contro il sequestro delle polizze che, a loro giudizio, non sarebbe diretto in prima persona al loro assistito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E proprio in un'inchiesta per riciclaggio è finito in manette il presidente del Catanzaro Calcio. C'è anche il presidente del Catanzaro Calcio, Giuseppe Cosentino, tra gli arrestati di questa mattina nell'ambito dell'operazione Moneygate, eseguita dalla Guardia di Finanza. Cosentino, insieme alla figlia Ambra, è finito ai domiciliari con l'accusa di aver trasferito in Svizzera diversi milioni di euro. Al centro dell'inchiesta c'è una società che è legata al Catanzaro Calcio come sponsor e che ha sede a 5 Frondi, nella piana di Gioia Tauro. La procura di Palmi, che ha disposto altri 2 arresti e 4 obblighi di dimora, avrebbe portato alla luce l'esistenza di una vera associazione per delinquere, aggravata dalla transnazionalità, finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita di ingenti somme di denaro. Per il presidente del Catanzaro, dunque, neanche il tempo di esultare per la sofferta salvezza conquistata ieri sul campo della Vibonese, che oggi è arrivato l'arresto. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro. E mentre si salvava il Catanzaro Calcio, si salvava anche il Crotone per rimanere in Calabria. È uno dei tanti verdetti di questa ultima giornata di Serie A. Una giornata, ma sì, non l'abbiamo messo nei titoli, lo dico agli ascoltatori, ma figuratevi se non ci abbiamo pensato a Totti, e lo dico all'ascoltatore affezionato che ci scrive: no, ieri non ho pianto. Carlo Genta, questo fine settimana sportivo, vai. Beh, questo fine settimana sportivo è stato un condensato di emozioni pazzesco, forse irripetibile, no? Perché il ritiro di Totti vuol dire un pezzo di noi che se ne va, vuol dire tante cose, non voglio essere retorico, ma io continuo a pensare il giocatore più grande del dopoguerra. È stato tra l'altro un addio da brividi, perché la vittoria solo 3-2 con il Genoa, quando c'era ancora il secondo o terzo posto in ballo, mentre Napoli vinceva facilissimo a Genova con la Sampdoria. E di questa festa si continuerà a parlare, però ieri c'è stata anche la doppietta Ferrari a Monte Carlo. La Ferrari non vinceva a Monte Carlo da 16 anni, quindi da Michael Schumacher. Ieri doppietta con Vettel primo e Raikkonen secondo. E poi, come se non bastasse, c'è stato un Giro d'Italia che mai succede, mai è successo da innumerevoli anni. Si decide all'ultima tappa, la cronometro, che è arrivata a Milano, con l'olandese Tom Dumoulin, che aveva perso la maglia rosa il giorno prima a favore di Nairo Quintana, che ha vinto la... Cioè, insomma, distrutto gli avversari di solito, a cronometro. Di solito Milano è una passerella, no? Sì, ma spesso anche al Tour de France, l'arrivo ai Campi Elisi con lo champagne in mano è una passerella. Quest'anno era stato disegnato in modo diverso, era stata messa questa cronometro finale e Dumoulin è stato il più forte di tutti, di Quintana e di Nibali, che comunque finisce al terzo posto. Direi comunque un verdetto corretto, perché Dumoulin, tra l'altro primo olandese a vincere il Giro d'Italia, è andato davvero forte in questa corsa, era il più forte a cronometro e si sapeva, ed è finita grosso modo come doveva finire, Simone Spezia. Quindi parecchie cose di cui parlare a partire dalle 14 in tutti i convocati, e tra le altre cose il fatto che ci si prepara, è iniziato il conto alla rovescia per la finale di sabato di Champions League. Intanto, grazie a Carlo Genta, abbiamo il nostro Dario Ricci in diretta da Torino. Dario, buongiorno. Buongiorno da Torino, destinazione Cardiff. Inizia ufficialmente oggi il conto alla rovescia della Juventus verso la finale di Champions di sabato prossimo. Bisognerà provare a strappare quella coppa dalle mani del Real Madrid oggi allo Juventus Stadium. Incontro con la stampa alle 14:30, conferenza stampa appunto di Max Allegri e di un giocatore, poi alle 15:30 a seguire allenamento aperto appunto ai giornalisti, cui seguirà la possibilità di intervistare alcuni altri giocatori bianconeri nella zona mista. Poi silenzio fino a venerdì, giorno della vigilia della finale, quando la Juventus partirà. Poi nel pomeriggio gallese di venerdì la conferenza stampa prima dei bianconeri e poi del Real Madrid. Sabato poi alle 20:45 al Millennium Stadium sapremo chi potrà mettere questa Champions League in bacheca. Intanto, per il momento da Torino è tutto, a voi la linea. Grazie dunque al nostro Dario Ricci per questo racconto, appunto, in attesa della partita tra Juventus e Real Madrid. A chiudere parliamo di uno spot che arriva dal Kuwait. Dirò a Dio che avete riempito i cimiteri con i nostri bambini e svuotato i banchi di scuola, che avete scatenato disordini e portato l'oscurità nelle nostre strade. Parte così lo spot della Zain, la compagnia telefonica del Kuwait contro la violenza e il terrorismo. Un video che è già diventato virale in tutto il mondo e ha raggiunto 2 milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni. In lingua originale, ma con i sottotitoli in inglese che rendono globale il messaggio positivo dello spot, la colonna sonora è tutta un inno all'amore. Bombardiamo la violenza con la misericordia, bombardiamo l'odio con l'amore, bombardiamo l'estremismo per una vita migliore, neutralizzeremo i loro attacchi d'odio con canzoni d'amore. Il video ha infatti come protagonista un terrorista pronto a farsi esplodere che si lascia convincere a cambiare idea dai familiari delle vittime. A rendere ancora più forte il messaggio è la partecipazione allo spot di persone realmente sopravvissute ad alcuni attentati terroristici. Allah è il creatore della vita e bisogna essere teneri nella fede e non duri, ed è indispensabile confrontarsi con il nemico in pace e non con la guerra, si canta ancora nello spot. Realizzato in occasione del Ramadan dalla Zain, provider di telecomunicazioni mobili leader in Medio Oriente e Nord Africa, è davvero un bellissimo messaggio di speranza. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro giro per l'Italia. Andremo certamente a Pesaro per parlare col presidente dell'Ordine dei Medici locale e della vicenda del bambino che è morto a quanto pare per un'otite, ma naturalmente l'autopsia che si svolgerà oggi darà dei dettagli maggiori. E poi toccheremo, dopo tanta indecisione, devo dire la verità, toccheremo il tema di Blue Whale, questo presunto, supposto che è probabilmente una mezza bufala, questo gioco che condurrebbe gli adolescenti al suicidio. Lo faremo senza ospiti perché è essenzialmente, o almeno così pensiamo, un fenomeno mediatico. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati del sequestro di 1 milione di euro a Gianfranco Fini in un'inchiesta per riciclaggio, di legge elettorale, a quanto pare si va verso un accordo tra i partiti, e anche di manovra. Ci siamo occupati molto di calcio, di sport e di Formula 1, ci siamo occupati anche del G7 e del clima. Adesso ricominciamo. Iniziamo il nostro giro per l'Italia. Siamo sempre in diretta sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Qualcuno ci chiede come vedere la diretta streaming. Beh, c'è là sulla nostra pagina Facebook, ma in realtà andiamo in diretta anche su YouTube, sulla pagina di Radio 24 su YouTube, e quindi volendo potete andare anche là. Su Facebook ovviamente potete commentare anche in diretta. In apertura di questo nostro giro per l'Italia, però, come vi dicevo, a differenza del solito, oggi non avremo un ospite. Tra l'altro, come sapete, la puntata del lunedì è un po' più corta. L'altro giorno ci siamo chiesti, e lo abbiamo fatto proprio sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, chiedendo anche consiglio a voi, se ci dovessimo occupare della vicenda Blue Whale, erroneamente tradotto con balena blu, in realtà sarebbe la balenottera azzurra. Che cos'è? È un supposto, presunto gioco, un gioco mortale, tramite il quale, così racconta quella che è diventata una sorta di leggenda metropolitana e che si sta diffondendo parecchio, secondo il quale una sorta di tutor adescherebbe, per così dire, degli adolescenti, dei ragazzini, e tramite una serie di istruzioni, sono 50, tra le quali è compreso l'autolesionismo, lo svegliarsi di notte per vedere un film horror, condurrebbe fino al suicidio. Ci siamo chiesti se dovessimo farlo perché la nostra impressione, l'impressione che abbiamo ricavato, è che fosse un fenomeno essenzialmente mediatico, rilanciato da una serie di canali di informazione più o meno affidabili, che l'hanno presa più o meno seriamente, è però diventato un fenomeno sul quale tutti si stanno interrogando. Vi consiglio intanto di andare a risentire la puntata che Gianluca Nicoletti ha dedicato la settimana scorsa a questa vicenda. Come ben ricostruito da una serie di testate che potete trovare anche in italiano, vi cito il Post, Wired, il blog del cacciatore di bufale Paolo Attivissimo, su questa storia non c'è alcuna certezza. Le informazioni che abbiamo convergono verso quella che sembra essere un'ipotesi di una bufala o semibufala. Le storie di cronaca che vedete raccontate sui giornali in queste ore, quella che trovate sui giornali oggi, è una storia che arriva da Ravenna, che parla di un taglio al braccio postato su Facebook e un allarme Blue Whale. In realtà, se andate a leggere le pieghe dei servizi che riguardano questa vicenda, vi accorgerete che non c'è nessun segnale che questi tagli al braccio, questi casi di autolesionismo che tra gli adolescenti ci sono sempre stati e sono sempre esistiti, siano collegati a questa vicenda. Di certo si sta diffondendo una psicosi che nasce da servizi che sono diffusi in Russia da una serie di testate di informazione che raccontano in realtà di gruppi di ragazzini che su internet parlano di suicidio. C'è un'esagerazione nei numeri, nel trasferimento che è arrivato dai servizi che sono apparsi in Russia a quelli che sono apparsi sui servizi dei media occidentali. C'è stato l'arresto di un uomo, Filip Budeikin, che si è autoaccusato dell'istigazione al suicidio di 16 ragazzine in Russia, ma senza mai citare il caso Blue Whale. E quindi, come dire, col massimo della tranquillità, diciamo che c'è stata un po' di irresponsabilità forse da parte dei media nel trattare questa vicenda e nel diffonderla e nel lanciare l'allarme in questo modo, tanto che ci sono sui gruppi WhatsApp dei ragazzini tantissime, come dire, informazioni che girano su questa vicenda senza poi naturalmente alcun elemento concreto, ma certo il timore che si diffonde tra i nostri figli. Dunque non c'è problema? La risposta è no. Il problema c'è semplicemente perché è stato creato mediaticamente e quindi si è autoavverato e in parte è diventato un problema. C'è un problema generale che è quello del cosiddetto disagio giovanile, le difficoltà degli adolescenti, le conosciamo tutti noi genitori di adolescenti e qua insomma parliamo anche di me. I casi di autolesionismo e di suicidio ci sono sempre stati. Le motivazioni che spingono una persona a togliersi la vita insomma non sono riducibili a un gioco su internet. Ci sono motivazioni molto più profonde ed è a quelle che dobbiamo fare attenzione. Un uso sbagliato o non controllato dei social, e questo lo ripetiamo sempre, può portare i nostri ragazzi in luoghi che non vorremmo che frequentassero, e questo avviene sia sui social sia nella vita reale, quindi come si controlla quello che fanno nella vita reale bisognerebbe controllare quello che fanno sui social, o comunque di attenzione, di spiegazione a quello che succede. Ma per cortesia, niente psicosi, perché il solo fatto di parlarne nel modo allarmistico nel quale ne stiamo parlando, ne viene parlato diffusamente, rischia di generare ulteriori problemi, ulteriori paure. Quindi attenzione, non c'è nessun allarme Blue Whale e i casi riscontrati fino adesso di suicidi e di autolesionismo al momento non è dimostrato che abbiano alcun collegamento con questa vicenda. Comunque, vi ripeto, la puntata di Gianluca Nicoletti, ci sono tante pagine informative su internet che sono più chiare, più definite e più specifiche su questa vicenda. Ci sono le informazioni degli psicologi che spiegano come parlare con i nostri ragazzi. Veniamo invece alla vicenda di Pesaro. Paolo Maria Battistini, medico e presidente dell'Ordine dei Medici di Pesaro Urbino, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti, buongiorno. La vicenda è quella del bambino di 7 anni che è morto, è in corso l'autopsia, si suppone che sia morto a causa di un'otite non curata nella maniera corretta da un medico omeopata che era iscritto al vostro ordine, cioè parliamo del vostro territorio. Questo medico omeopata ha una storia particolare, abbiamo appreso oggi dai giornali, perché era andato a Varese, si era disiscritto dall'ordine dei medici, aveva lasciato l'ordine dei medici, per 4 anni era andato a Varese dove era stato dentro una setta, la setta del Rovo Ardente, una setta che si... Roveto Ardente, del Roveto Ardente, chiedo scusa, è una setta nella quale appunto si credeva nell'Apocalisse, e poi è rientrato nell'ordine dei medici normalmente. Che cosa sa di quest'uomo Battistini? Ma allora, che lui facesse parte di una setta lo imparo in questi momenti, in queste ore, perché già ho avuto altre telefonate da parte anche di altre radio. Io lo conosco personalmente perché all'ambulatorio a Fano, dove io esercito l'attività di medico di medicina generale, quindi era una persona che io conoscevo, è una persona che io conosco personalmente e con cui ho parlato diverse volte, e non mi ha mai dato l'impressione di essere un medico che andava contro i principi generali della deontologia e di tutto il resto. Diciamo che il dottor Mecozzi sì, si era cancellato dall'ordine e noi avevamo chiamato per stimolarlo a rimanere iscritto all'ordine, anche se non la sua intenzione era di non esercitare. La risposta fu un diniego e praticamente lui ha detto che si sarebbe interessato di altre cose, però ecco che si sarebbe dato a queste sette cose, io non ne sapevo assolutamente non ne sapeva niente. Tanto più quando ha chiesto la sua iscrizione. Io allora, quando si è cancellato, ero segretario dell'ordine, quindi ho vissuto, sono presidente da 2 anni, ma ho vissuto la storia fin dall'inizio, perché come segretario chiaramente sono addetto alla tenuta degli albi. Quindi quando l'abbiamo iscritto, lui non aveva, era un medico regolare, non aveva avuto nessun tipo di segnalazione da alcuno. E quindi noi l'abbiamo iscritto perché aveva i titoli per essere riscritto. Mi scusi Battistini, non esiste una sorta di forma di controllo preventivo? Nel senso che io immagino che se voi aveste saputo che era iscritto alla setta del Roveto Ardente, che credeva in un'apocalisse prossima avventura, insomma ci avreste pensato un attimo prima di farlo riscrivere, no? Noi possiamo controllare quei medici che ci dicono che si sono laureati e si sono abilitati, e chiediamo conferma alle università. Altre forme di indagine non sono nei nostri compiti. Quindi quando noi scriviamo, ma non solo l'Ordine di Pesaro, qualsiasi ordine d'Italia, quando scrive un medico deve controllare se ha i requisiti per essere iscritto all'albo. Dopo le sue tendenze personali e tutto il resto, quello che lui può aver fatto, non è dato di sapere. L'ordine non ha potere di indagine sull'iscritto, tant'è vero che anche in questa situazione noi non è che possiamo entrare nel vivo delle indagini. Nelle indagini ci entra la procura e noi chiaramente agiremo, prenderemo i nostri provvedimenti. Adesso abbiamo intenzione infatti di chiamare il medico, comunque sia, ecco. Aprirete un procedimento disciplinare, Battistini? Sì. Io mi confronterò con l'ufficio legale domani mattina, ho già l'appuntamento con i nostri avvocati chiameremo il medico in audizione. Dopodiché, una volta che abbiamo ascoltato il medico e le sue controdeduzioni, chiaramente deciderò in prima persona se prendere o meno, se dare inizio al procedimento disciplinare. Dopodiché il provvedimento disciplinare, l'eventuale provvedimento disciplinare sarà preso dalla commissione apposita che è in sito all'Ordine dei Medici. Allora la ringrazio, grazie Paolo Maria Battistini, medico e presidente dell'Ordine dei Medici di Pesaro Urbino. Purtroppo gli spazi sono ristretti e quindi andiamo a chiudere qua, andiamo a sentire cosa succede sui mercati. Solo una piccola nota sulla vicenda Blue Whale. Qualche ascoltatore scrive: bisogna rivolgersi ai colleghi giornalisti, non a noi. Chi crea allarmismo? I giornalisti. E io infatti è proprio per come è stata trattata dal punto di vista mediatico che ne ho parlato. Qualcuno dice: troppa fretta nel ricevere notizie, ce lo scrive su WhatsApp. Sì, un tema è anche questo, che queste storie sono, dal punto di vista giornalistico, e scusate la brutalità, sono a volte sembrano troppo belle per non raccontarle, e poi in realtà alla fine si scopre che, come nel caso di Blue Whale, insomma non c'è un vero fondamento. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi avremo solo tempo, forse 20 secondi, per salutarci. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook. I nostri titoli: per riciclaggio è stato sequestrato 1 milione di euro in polizze vita a Gianfranco Fini. Sulla legge elettorale, partiti vicini all'accordo, il voto sembra più vicino sul sistema tedesco. Oggi l'autopsia del bambino morto dopo l'otite e le sole cure omeopatiche, genitori indagati insieme al medico. Chiuso il campionato con gli ultimi verdetti, inizia il conto alla rovescia per la finale di Champions sabato sera. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Abbiamo veramente solo pochi minuti, però visto che abbiamo dedicato così tanto spazio, quei 4-5 minuti in apertura della seconda parte della trasmissione, alle 13:15, proprio al tema di Blue Whale, vale la pena dare un ulteriore paio di chiarimenti. Un ascoltatore ci ha citato poco fa via WhatsApp il servizio delle Iene, nel quale si parlava di 150 adolescenti morti in Russia e uno in Italia. Ebbene, vogliamo ribadirlo ancora una volta, perché è bene far chiarezza su questa vicenda. Queste cifre sono state ampiamente smentite, basta andare a cercare ovviamente le fonti giuste. La vicenda è stata rilanciata nei mesi scorsi, tanto per fare un esempio, da una serie di quotidiani britannici come il Sun e il Mirror, che non sono propriamente degli esempi di affidabilità. Ci sono probabilmente stati dei casi di istigazione al suicidio e questi ne avvengono quotidianamente. Può darsi anche che ci sia stato qualche gioco mortale, questo non lo possiamo escludere ovviamente, ma di qui a dire che c'è un sistema, una cosa sistematizzata per spingere gli adolescenti al suicidio, ne passa moltissimo. Gli stessi casi riportati per l'Italia e riportati anche nel servizio delle Iene non è per nulla accertato che provenissero da là, e anzi è molto probabile, lo riferiscono funzionari della questura, se non erro il caso arrivava da Livorno, lo riferiscono funzionari della questura, che si trattasse di un caso di forte disagio familiare, quindi casi che in qualche misura ci sono sempre stati. Come ci scrive un ascoltatore, dice: la mia compagna è una psicologa, psicoterapeuta, lavora con i minori, racconta che l'autolesionismo è un fenomeno che sta aumentando negli ultimi anni, ma non il suicidio. Nulla comunque di collegato a giochi sulla rete, sono fenomeni che sono sempre esistiti. E aggiunge Marco: è un allarmismo ingiustificato. E chi diffonde notizie gonfiate così, ha ragione un nostro ascoltatore, sbaglia. Non so se, come scrive l'ascoltatore, è un criminale, certamente sbaglia e di molto. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede negli Stati Uniti con il nostro Mario Platero. Ci risentiamo alla fine per i saluti.